una guglia del Duomo, seduto sta un uomo che guarda la folla passar. Tapio di un mese, Tapio di un mese. E sussurra la gente, deve esser demente, e intanto si ferma a guardar. È un milanese che si è messo i passaggi a contar. Ma fra napoletan, siciliani, roman, calabresi, varesi e paesan, oh che grande illusion, sono più d'un milion di Milano, neppure un barbon. Su una guglia del Duomo seduto sta un uomo che guarda la folla passare.